Bippo il satellite e la stella sparatrice. Bippo faceva il suo consueto giro nello spazio quando un tratto sentì un ping sulla pelle e vide un oggetto che lo sorpassava. Ai, ai, chi è stato? Vieni qui! Urlò Bippo alla cosa che passava sibilando e prima che sparisse riuscì a fotografarla. È una stella sparatrice, disse nonna computer quando vide la foto. Sono anni che non se ne vedevano più. Porta fortuna a vederne una. E quelli che ti hanno bucato la pelle sono i suoi proiettili d'oro. Più tardi Bippo, avvicinandosi a un asteroide, vide qualcosa che luccicava. Scese a picco e riconobbe la stella sparatrice. Cosa ci fai qui? Chiese Bippo atterrando sull'asteroide. Vai via, stupido di un satellite! Sono arrabbiata! Ho finito tutti i miei proiettili d'oro! Era ora! Lo sai che mi hai fatto male? Dolente! Boffonchiò la stella. Bippo riprese punta e continuò il suo giro. Poi, verso sera, captò dei pianti con i suoi sensori. Si diresse verso il posto da cui provenivano i lamenti e scoprì che si trattava del pianeta dorato. Piangeva perché 9 lune cattivelle gli divoravano tutto l'anello d'argento. Occhio, compagne! Sta arrivando un satellite! Ognuna torni nella sua orbita! Il pianeta dorato intanto singhiozzava. Quelle orribili lunine continuano a mangiarsi pezzi del mio anello di fidanzamento. Fra un po' non rimarrà niente. Conosco qualcuno che ti può aiutare, disse Bippo pensando alla stella sparatrice. Ma dovrai darle in cambio dell'oro. Per me va benissimo. Ne ho tonnellate e tonnellate e può prendermi a volontà. In un baleno Bippo tornò sull'asteroide dove trovò la stella sparatrice seduta e di pessimo umore. Evviva! Disse la stella quando Bippo le espose il suo piano. Credo di farcela e per di più sono sicura che mi divertirò. Per tutto il giorno la stella stette in agguato, finché all'improvviso le 9 lune cattivelle sbucarono dallo spazio. Con un guizzo la stella entrò in azione. Ai, ai! Strillavano le lune ogni volta che un proiettile d'oro le colpiva. La stella sparatrice atterrò sull'anello d'argento e agitando minacciosamente le pistole intimò: sparite e non tornate mai più! Le lune cattivelle tornarono volando alle loro orbite, contente di essere ancora in vita. La stella sparatrice ebbe dal pianeta dorato la promessa di un costante rifornimento d'oro per i proiettili e da parte sua promise protezione. La stella sparatrice ha portato fortuna a qualcuno, ma sfortuna a qualcun altro, concluse Bippo, sorridendo.